Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. È arrivato l'inverno, quello vero, e il freddo che arriva dal nord Europa. Il calo termico sostanzioso delle ultime ore ha già portato neve che continua a cadere sull'autostrada del sole. Pesanti disagi sull'Appennino Tosco-Emiliano, chiusa la A1 tra Firenze e Bologna in entrambe le direzioni. I mezzi spargisale sono entrati subito in azione, anche per evitare complicazioni legate al rischio di gelate notturne. Nevica comunque su tutta la Lombardia e in effetti quello che sta avvenendo in queste ore è soltanto un assaggio di quanto si prevede accadrà nei prossimi giorni. Un vento gelido arriverà dalla Siberia e dalla Russia, si chiama Burian e porterà le temperature ben al di sotto dello zero e tanta neve anche in pianura e al centro-sud, coste della Sardegna, Sicilia e Calabria comprese. Io ricordo il freddo della mia gioventù. Io ricordo l'Umbria flagellata da tramontana. Io ricordo inverni in cui non c'era presidio al gelo, andavamo a letto con i calzerotti di lana e con il cappuccio. Io ricordo il freddo quello vero, quando ancora non esistevano i piumini, non esistevano le giacche a vento, e si aveva soltanto il cappottino, o si aveva il loden, o si aveva, non so, qualche maglione. Sì, perché non è tantissimo tempo fa, sto parlando di 40 anni fa, diciamo, in cui non c'erano queste giacche tecniche che ci salvavano da qualunque intemperie. Beh, nonostante che oggi anche il più disgraziato di noi comunque ha un presidio termico contro il maltempo, siamo avvolti in Burian. È arrivata, sì, per me pronunciarlo c'è qualche difficoltà, me ne rendo conto, ma il tema del giorno è proprio Burian, che Burian è un vento di aria fredda che solleva neve, ghiaccio, che viene dalla Siberia. Vi ricordate una buriana, quando diceva è scoppiata una buriana, forse anche Bora ha la stessa radice. Beh, oggi quando leggo la terribile ondata di gelo, la Campania in ginocchio, pensate che l'Italia va in ginocchio semplicemente perché d'inverno fa freddo, che è sempre una cosa che è sempre accaduta, mi fa pensare sullo slittamento che c'è rispetto alla percezione del freddo. Abbiamo case riscaldate come mai nella storia dell'umanità è esistito, che normalmente la gente si riscalda, perlomeno noi civilizzati, noi benestanti, noi che abbiamo delle case, noi che non abbiamo problemi, noi che ancora possiamo bene o male pagare le bollette del riscaldamento, che mediamente è la parte essenziale dell'umanità. Sentite nel frattempo Burian che mi sta flagellando, sì, perché ha voluto ricostruire quello che è emotivamente il clima che stiamo vivendo tutti, il freddo che ci porta via. Beh, nonostante il fatto che mai abbiamo memoria generazionale di un periodo così riscaldato, con case così confortevoli come adesso, e ripeto, dalle memorie dei genitori, dei nonni e dei bisnonni, non ci giunge nulla che sia equiparabile a un momento di benessere termico come questo, sia per come ci vestiamo, sia per dove abitiamo, sia per le automobili che abbiamo iper termiche, per tutte queste cose qua. Beh, possibile che noi ci facciamo prendere nel panico, dal panico, perché improvvisamente arriva Burian, come ci trovassimo all'interno di, nel mezzo di una steppa desolata, con i lupi che ci assalgono alle spalle, che ci stanno quasi lambendo con le loro fauci improbe. Sembra quasi stare in una scena del dottor Zivago. Ma ragazzi, siamo a Roma, Milano, Napoli, Genova, Bologna. Dov'è Burian? 800 24 0024. Anche voi questa mattina avete detto: bene, non usciamo, che freddo, non andiamo a fare il capodanno fuori che ci sarà il gelo, non andiamo a sciare perché rischiamo la vita, attenzione ci sono i lupi, portiamoci dietro asce, picozze, strumenti per offendere le torme di lupi che ci stanno assalendo. Ma dov'è questo Burian? 800 24 0024, vi siete accorti che è arrivato Burian? Arriva il Burian, vento gelido direttamente dalla Russia. Al nord giornata soleggiata su tutte le regioni, molto fredda e con qualche nevicata debole sui confini altoatesini. Al centro neve fino sulla costa di Abruzzo, Molise e Marche meridionali, neve anche sui monti di queste zone, sole sul resto delle regioni. Raggiungiamo il sud, neve sul Gargano fino a... Cosa accadrà con Burian? Improvvisamente vedremo rompersi i vetri delle nostre case, vedremo entrare il ghiaccio, il freddo, la tormenta, stalattiti sformeranno i soffitti delle nostre case, moriremo congelati, ci taglieranno mani e piedi, come nelle storie degli alpini lungo la grande ritirata in Russia, che ci hanno appunto deliziato la nostra fanciullezza. Non ti lamentare che senti freddo, il nonno ha visto le mani congelate, le gavette di ghiaccio, e via dicendo. Torna Burian e improvvisamente ci riporta in una realtà lontana, arcaica, fatta di freddo vero, di mani con i geloni. Mi raccontai, ma noi da piccoli avevamo i geloni, mamma mia, i geloni, pensavamo queste cose che venivano nei geloni. Oggi purtroppo i geloni li hanno le persone che dormono all'aperto, all'addiaccio, lungo viale Mazzini li vedo ogni mattina, signori addormentati, coperti di stracci, di cartacce, di giornali. Quelli veramente, probabilmente per loro sì, l'escursione termica avrà un senso, ma per voi che mi ascoltate in questo momento, siete deliziati dal profumino del soffritto di cipolla che viene dalla vostra pentola, ve ne state lì in delle comode pantofole, state probabilmente in camicia e in maglietta. Io ricordo i periodi in cui si stava col maglione dentro casa, perché era veramente freddo, non esistevano gli infissi che esistono oggi, che non passa nemmeno un piccolo reflo di vento, in cui naturalmente si passavano manate intere e c'erano dei vortici che entravano dalle finestre. Perché oggi temete Buren? 800240024, dov'è il freddo? A tutti buonasera, nevica sul Danubio, sulla Vistola, sul Meno, dove il freddo si può dire è di casa in questa stagione, ma ora dall'Europa centrale il freddo passerà i confini e è intenzionato nei prossimi giorni a portarsi sul Mediterraneo e anche sull'Italia. Di questa irruzione ne risentiranno soprattutto, direi, a partire da Santo Stefano, le nostre regioni adriatiche e anche le regioni meridionali particolarmente esposte al tipo di tempo da nord o da est. Sono correnti che vengono sì, dai Balcani, quelli che ci questo sono... è un metodo del 1996 in cui Caroselli diceva che veniva dalla Siberia il Burian, già da allora, vedete, è una minaccia ricorrente. Ma oggi cerchiamo intanto di dare innanzitutto consistenza e realtà al Burian. Abbiamo al telefono la persona che battezza normalmente tutti i cataclismi che attraversano il nostro paese e probabilmente è anche questa volta, diciamo, il coniatore di questo termine, che poi è un termine antico. Antonio Sanò, buongiorno. Buongiorno e grazie a voi. Responsabile del portale ilmeto.it, valta 35 milioni di contatti al mese. Sanò, è vero che tutto sommato è lei che battezza sia il caldo e il freddo che attraversa il nostro paese con dei nomi fantastici? Battezziamo con i nomi fantastici, questa volta usiamo un nome popolare che esiste già, il Burian. Sì, che già le nostre nonne, arriva la Buriana, queste cose qua. Sì. E perché non avete trovato un altro nome mitologico, tipo quei nomi belli, non so, me ne dica qualcuno del passato. No, i più famosi, i più noti. Andava benissimo per questa Cleopatra, c'è stata Cleopatra. Cleopatra è il ciclone che porta il maltempo in autunno, in inverno, e che è la più potente perturbazione dell'inverno. Quest'anno in realtà non abbiamo avuto modo di vivere questi cataclismi degni di questi nomi mitologici. Ma Burian è una realtà, cioè, che veramente ci farà del male, o in effetti è il freddo che viene l'inverno, come è normale? Allora, quando questo vento viene dalla Russia, addirittura dalla Siberia, questo è il Burian. Chiaramente porta un abbassamento delle temperature piuttosto importante nei prossimi 2-3 giorni, con dei tipi di tempo diverso tra il nord, le regioni adriatiche e il sud. Quindi al nord il freddo secco e asciutto col cielo sereno, invece sulle regioni adriatiche e meridionali in Sicilia nevicherà. Non è un po' esagerato scrivere nei giornali la Campania in ginocchio? Cioè, l'inverno è freddo, quando mai è stato caldo di suo periodo? Allora, ha ragione, però ci sono delle situazioni meteorologiche che ci paralizzano le nostre attività, perché quando noi siamo abituati a una grande libertà, quando invece non riusciamo ad uscire la macchina, non riusciamo a muoverci, ci sono dei disagi. E nel mondo d'oggi soffriamo molto di più. Però Antonio Sanò, sì, mi dà atto, sì, che non è mai accaduto nella memoria, sì, delle nostre ultime 2-3 generazioni un periodo di benessere termico come adesso. Abbiamo delle case fantastiche, abbiamo dei giubbottini leggerissimi che tengono il freddo. Cioè, io a 20 anni di sto periodo andavo in giro con l'Oden, capisce? E faceva, sì, freddo davvero. Ma non perché ero povero, perché c'era quello e basta. La giacca a vento si metteva che andava a sciare, non si metteva durante l'anno. Certo. Comunque adesso arriva il freddo. Arriva il freddo. Fermo un attimo, resti un attimo in linea. Sì. Clara, buongiorno. Clara. Sì, buongiorno. Abbassi la radio. abbasso la radio, anzi la spengo, ecco. Sì. Visto io che lei ha l'esperto anche meteorologo che ancora ci sta ascoltando, ha qualcosa da dire di questo intempere che sta rovinando la sua vita e sta minando la sua salute? Non sto rovinando niente, mi fa morire da ridere quello che dite, perché io ho 86 anni. Quanti anni ha? 86. Quindi a rischio col freddo. E sono una bimba nata in montagna, sulle montagne venete. È arrivata a Milano a 40 giorni, perché la mamma era andata a partorire in una casa dei nonni, nella camera dei parti, perché la nonna aveva 8 figli maschi e pretendeva che le nuore andassero a partorire il primogenito nella camera dei parti, perché era gelata, ma la più vicina ai secchi dell'acqua. Beh, quindi capito? Lei è stata, diciamo, menata nel ghiaccio, presa secchiate d'acqua gelida. Ma lei se lo ricorda il freddo, quello vero? Conviene con me che oggi mai è stato un periodo... Certo che lo ricordo il freddo, quello vero. Ricordo i ghiaccioli appesi ai vetri che staccavamo, aprivamo le finestre e staccavamo i ghiaccioli per succhiarli. Ma qui a Milano a 2 anni... Perché se era poveri non c'erano i gelati, uno succhiava gli stalattiti di ghiaccio, certo. Ma sì, noi succhiavamo le stalattiti di ghiaccio attaccate alle finestre. Ma poi il divertente era che quando uscivi di casa... c'erano le lastre di ghiaccio sul marciapiede e facevi gli scivoloni. E gli anziani cadevano e si spaccavano tutti. Ma non è vero. Vede, la legge del taglione. Qualcuno cadeva e rideva neanche, ma non eravamo mica tutti spaventati del mondo come adesso, sa? Era appena finita. Ma adesso mi fa ridere che adesso vedo mediamente. Mi ascolti bene, sì. La seconda guerra mondiale era finita, Milano era praticamente distrutta. Ma nella sua distruzione era ordinata, pulita, che era una bellezza. Ma c'erano anche meno persone in giro e meno automobili. Ma eravamo meno persone, eravamo 1 milione di persone, ma adesso siamo 1,3 milioni di residenti, però abbiamo... No, Clara, posso... Abbiamo 1 milione di altra gente. Mi sta a sentire, arriva... Clara, posso solo un attimo una cosa, vorrei una sua testimonianza, visto che oggi io vedo persone in giro con giacche termiche che... potrebbe uno andare sulla cima dell'Himalaya per meno 30 gradi, ecco, diciamo non tanto tempo fa, ma 30 anni fa, cosa si metteva la gente quando usciva? Ma io andavo a sciare qui nei dintorni della Lombardia, no? Perché mandare fino al Veneto fin dai nonni era troppo lontano. La giacchina a vento, quella con la carta geografica all'interno. Avevo la carta da giornale sul petto. Ah, vedi. Anzi, direi che sulla pelle, sotto il maglioncino, la mamma mi metteva la carta nella quale comperava il burro e la ungeva di burro bene, me la impiastricciava. Allora, Clara, pensate, Clara, 80 anni, voi vi spaventate per Burian, andava a sciare cosparsa di burro nelle sue parti nascoste e ricoperta di giornali, e ancora viva. Ricoperta sopra i giornali. E ancora viva, nonostante i lupi, grazie. Grazie, buongiorno. Grazie. Buongiorno. Grazie. Anche lei è spaventata da Burian, dai lupi? Assolutamente. Senti i lupi alle sue spalle. La mia infanzia l'ho passata in montagna, in una zona dove veniva tantissima neve. Quindi questi 4 lupi non la spaventano? Che saranno? No, ma nemmeno un po'. Anzi, le dirò che io le previsioni non le ascolto mai. Sì. E detesto i meteorologi, cioè, e detesto anche un po' chi li ascolta, perché io ho delle amiche che vivono le loro giornate o fanno dei progetti in relazione al tempo. Cioè, questo non esisteva assolutamente una volta, cioè... Se una volta si usciva comunque, si andava a scuola, cioè... Io non sarò andato a scuola per la neve una volta in 5 elementari e 3 medie, proprio una volta che magari, che ne so, ci siamo inventati qualcosa, ci si andava comunque. Esatto. Mario, buongiorno, Mario. Sì, buongiorno, senta. Teme Burian, prima domanda. Queste cose che avete detto voi, però mentre voi parlavate mi è venuta in mente un'altra cosa, ma voi vedete che qualcuno ci guadagna in tutto questo? Perché vede, questo è un paese in eterna situazione di emergenza. Se fa caldo siamo in emergenza, c'è la siccità. Addirittura noi abbiamo una rete che fa che è un colabrodo dal 60-70% di acqua, e poi abbiamo la siccità e dobbiamo intervenire per salvare. Quindi conclusione che devo dare il traffico, se traffico Burian permettendo naturalmente, dice in effetti è un'esagerazione. No, ma soprattutto io temo che qualcuno ci guadagni sopra sull'emergenza. Ma probabilmente no, sa, è anche una maniera, perché di questo periodo nessuno ha tanta voglia di lavorare. I giornali trovano un facile argomento per riempire pagine. No. La morsa del gelo. Poi uno rimanda in onda i servizi e scrive i pezzi di 10 anni fa. Avete sentito un pezzo identico del 96. aerei. Potevamo mandarlo questa mattina e nessuno se ne accorgeva. Traffico, Burian permettendo. Melog. Cronache meridiane. È arrivato così come previsto. L'Italia questa mattina si è svegliata sotto lo zero e così sarà fino a Capodanno. Questa ondata di freddo, tipicamente artica, porta con sé vento gelido, piogge e neve anche a bassa quota. La giornata di oggi non sarà delle migliori, soprattutto nelle zone dell'Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, dove rovesci e neve oltre gli 800 metri hanno già imbiancato durante tutta questa notte molte zone anche del Medio Adriatico. Al nord, freddo e cielo sereno contraddistingueranno questo ultimo lunedì del 2014. Il freddo è pungente e si sono viste le prime vere gelate di questo anno, avaro di neve in montagna. Secondo gli esperti, l'apice di questo freddo invernale verrà raggiunto tra domani e dopodomani, Capodanno, quando dovrebbe nevicare su tutto il nostro paese, da nord a sud. Se l'autunno è stato dunque mite, l'inizio di questo inverno... Scusate... Se sorrido mentre state sentendo l'ennesimo annuncio su Burian, la mossa del gelo, perché mentre andavano le informazioni del traffico mi stavo cercando nel computer qui davanti una sequenza del dottor Zivago per descriverla, e malauguratamente mi è andata la sequenza più divertente, quando lui muore, e purtroppo non c'era nemmeno un filo di neve per strada. Lara cammina per strada con un fazzoletto in testa, con uno squallido soprabito marrone. Lui scende dal tram, però gli piglia l'infarto e non la riesce a prendere, si stringe la camicia, corrono dei bambini, c'è un monumento russo. Mi immaginavo neve e gelo, la ricordavo male questa scena, ecco, quando Omar Sharif ormai sta dando l'ultimo sussulto e si schianta a terra accanto al monumento dell'eroe russo e tutti lo vengono a prendere, non c'è nemmeno un filo di neve. Quindi dove sta Burian? 800 24 00 24, stiamo questa mattina riflettendo sul fatto che saremo tutti in una morsa di ghiaccio, moriremo tutti assiderati, dobbiamo stare molto attenti perché arriva Burian dalla Siberia, ma i nostri ascoltatori non sembrano d'accordo. Franca, buongiorno, dov'è il freddo siberiano? Niente freddo siberiano, è un freddo bellissimo questo. Normale. Benvenuto il freddo così. Io da casa mia vedo le montagne innevate che sono una meraviglia. Che montagne sono? Le montagne dell'Avetone, dell'Appennino dell'Avetone. Ah, in Toscana. Erano mesi che non si vedevano le montagne così chiare, così limpide. Sono scesi i lupi a valle anche da lei? Ma dov'è il freddo? Sono scesi i lupi a valle? No, non sono scesi lupi a valle. È una bellissima giornata, che ben venga il freddo così. Ma dov'è il freddo siberiano? Quindi non è in ginocchio. Non è in ginocchio. Oggi si deve uscire di casa. No, cioè, è la giornata giusta per uscire. Ma di sa casa. Quanta gente questa mattina ha detto dove andate? State attenti, vai a lavorare, prendi la macchina, hai le gomme termiche. Ma scherziamo davvero? È una giornata meravigliosa. Va bene, buon per lei. Mafalda, vediamo se Mafalda invece è nella morsa del gelo. Mafalda, è arrivato Burian dalle sue parti? Buongiorno. Vedo il Resegone e la Grigna innevati. Il Resegone è innevato? Da Monza, è bellissimo. Poi è contento. Credo che si cautelino, che sia una cosa politica, che non vogliono rogne dopo, autostrade, perché al ritorno da... Ah, è l'ennesima strategia di Renzi, ci spaventa con Burian. No, dell'autostrada, al ritorno da Firenze con mia figlia avevamo le catene, a un certo punto non sapevamo se prendere la strada. Le catene sull'autostrada, ma siete pazzi? Avevamo la nostra macchinina, la piccola. Ma ormai le catene le mettono soltanto gli umarelle, ci sono le gomme termiche, chi mette più sì, le catene? Ma non intendevamo fare questo viaggio, è capitato al ritorno, ci hanno comunque eravamo a un bivio, o scegliere Pontremoli, Firenze, e avete messo le catene? No, siamo andati, c'era un signore davanti a noi con i vetri tutti appannati che andava a 50 all'ora e noi dietro per paura di... No, guardi, perché ascoltavamo 103.3 e ci spaventava, ci spaventavano, abbiamo insomma... Portatevi un paletto appuntito contro i lupi, quella è l'unica cosa che serve veramente. No, Giorgio, come no, pieno di lupi. Giorgio, buongiorno. Sì, buongiorno. buongiorno, allora, buongiorno a tutti. Grazie. Cosa succede? Dov'è Burian? Dalle sue parti c'è arrivato? Ma noi qua siamo in provincia di Cuneo, ci sono 7 gradi, qui non succede niente. Noi siamo abituati alla neve, ci piace la neve, d'inverno vogliamo la neve. Quindi dov'è questa Italia in ginocchio, spaventata? Quando le scuole degli altri posti vengono chiuse, lei dice, ma perché noi qua, anche se c'è mezzo metro di neve, andiamo a scuola? Già, quindi anche da voi Burian non è che vi dà questi problemi che si pensa? No, perché leggendo i giornali questa mattina sembra che l'Italia sia tutta chiusa dentro casa, con i bambini spaventati, i bambini nascondetevi nell'armadio, che arriva il colosso troll che vi porta via, non lo so, delle cose da fantastiche. Vabbè, forse... È vero, ma io trovo veramente che ci sono, sembra quasi un terrorismo, spaventare le persone, è l'inverno. Ma forse è una pubblicità occulta al film Frozen, forse per quello, dobbiamo tutti aver paura del ghiaccio, non lo so. Sì, devo darvi ragione. Maria Grazia, buongiorno, grazie. Buongiorno, allora volevo dire... Questo sono io che cammino sui lastroni di ghiaccio, vi faccio sentire. Sì, eppure io ho qualche lupo nelle vicinanze. Sì, li sentiamo, lo so. Infatti. E quindi? Voglio dire, quando ho qualche giornata storta, praticamente basta che io mi colleghi ad internet, mi leggo le previsioni del meteo, e praticamente comunque ha un po' di catarro, la sento un po' giù di voce. No, sono una fumatrice, sono anziano. Ah, niente, allora è solo i polmoni incatramati, quindi non c'entra niente a Burian col suo stato di salute cagionevole. No, quindi non è responsabile. Benissimo, Marco, buongiorno. Buongiorno a lei. Sì. Senta, grosso modo condivido tutto quello che hanno detto coloro che mi hanno preceduto. Eccetto? Qualcosa invece va detto a proposito della neve. La neve è una mano santa, perché senza la neve sui monti avremmo le falde acquifere che non si riempiono di nuovo, quindi avremo problemi di siccità. Tutti i cronisti che dichiarano allarme meteo, cioè, dovrebbero dire finalmente è arrivata la neve, questo dovrebbero dire. No, lei dice una cosa saggia, Marco, sa perché? Perché sembra che l'unico problema della neve sono i campi di sci. Fanno una sorta di intervista in quattro fortunati che sciano. Sci. È tutto, perché la neve è una salvaguardia per la natura e per tutta l'agricoltura. Quindi per fortuna c'è la Buriana. E poi la neve riempie le falde acquifere, senza quello io vorrei vedere che cosa potrebbe accadere in un prossimo futuro se non ci fosse la neve sui monti, e già è un problema perché ne sta facendo sempre di meno, ce ne vorrebbe molta di più, perché con quella noi ci possiamo salvare, se no da dove viene l'acqua? Io non lo so, qualcuno ce lo dica. E io ho letto notizie veramente conturbanti che si sta squagliando la neve al polo nord e escono le piramidi, meteo, quindi può succedere meteo, disastri dappertutto, ma che sì, dovrebbero dire invece finalmente arrivata la neve, gioia, attenzione, adeguiamoci naturalmente con i mezzi, con le catene, con quello che è, ma finalmente arrivata la neve, gioia, non è invece disgrazia. Questi sono dei menagrami, sono dei va bene, con questa limpida e ottimistica conclusione del nostro ascoltatore, in realtà se ha un valore il campione statistico, le persone hanno chiamato, gli italiani non sono affatto in ginocchio per Burian, non gliene importa nulla, perché normalmente le persone che vivono sanno che d'inverno fa freddo, se nevica ancora meglio, perché come dice giustamente l'ascoltatore, ce ne vorrebbe molta di neve dappertutto, perché così staremmo meglio per l'estate, i fiumi continuerebbero ad avere l'alimentazione, quindi c'è tutto un problema. Invece no, questi dichiarano allarme dappertutto, e le cose che ci siamo già sentiti. Grazie, sentiamo Vincenzo. Buona giornata a lei. Vincenzo. Buongiorno a lei, io sto a Foggia, qui il tempo non è molto clemente per le tipiche temperature nostre. Ma ci sono i famosi lupi della Capitanata? Noi abbiamo tanti di lupi. Ah, ecco, sì, ecco, li sto sentendo. Soprattutto quelli affamati di soldi. Ah, è una metafora, la politica è sempre stata metafora. Sì. Allora, quello che voglio dire, le previsioni meteorologiche, la settimana scorsa le ho guardate tramite internet, meteo.it. L'abbiamo sentito. Riportava proprio queste condizioni che dopo Natale ci sarebbe stato il freddo. È il genio della mitopoiesi meteorologica, l'abbiamo sentito al telefono, colui che... Non è, a parte il fatto che io insegno meteorologia e bene o male ho una certa esperienza... Quindi è proprio Burian questo che sta arrivando, quello che viene dalla Siberia? Ma senta, questo è un tipico freddo invernale, non è niente di eccezionale, non è che abbiamo questo freddo che chissà che cosa. Cioè, se io ricordo la tramontana della mia gioventù, ma fa ridere, potrei andare in giro in maglietta, io non lo so. A parte il fatto che la tramontana è un vento dal nord, è un vento freddo, già per se stesso anche durante l'estate dà fastidio perché è più fresco rispetto agli altri. Però ciò che voglio dire, queste sono le condizioni meteorologiche. Noi abbiamo nell'arco dell'anno, delle 365 giorni, venti positivi e venti negativi, cioè venti caldi e venti freddi. Leggo il messaggio del solito compis Nicoletti. Mai sentito parlare di gente che lavora all'aperto? E beh, che vuol dire? Certo, la sento, la vedo tutti i giorni. Sì, la gente che lavora all'aperto. Tutti noi. Allora, io ho lavorato all'aperto, ho lavorato a bordo delle navi, ho lavorato in zone completamente fredde, dove a ottobre c'era già il ghiaccio sul mare, però si lavorava ugualmente. Io ho vissuto in campagna fino all'età di 20 anni, e ho sempre visto gente che lavorava all'aperto. Non pensate che sia il fighetto, capito, che parla. Ma adesso non lo so se queste persone stanno diventando femminucce. Vero senso della parola, senza offendere le femminucce. Se lavora all'aperto si copre, se lavora all'aperto e continua a lavorare come è sempre accaduto. Non è il nostro un paese in cui la gente. I lavori pericolosi, che non si può lavorare quando fa freddo o quando nevica, quando pioggia, ci sono, e le persone che sanno che è pericoloso non lo fanno, e si bloccano direttamente. Però io non ho mai visto asfaltare le strade con la neve, però. Sì, va bene, ma spalare con la neve, ma santa fede di Dio, io da bambina ho visto tanta gente spalare la neve ed altre cose. Ma l'ho spalata tanta, devo dire. Era una gioia per fare una cosa del genere. Sentiamo un attimo, fermo un attimo, scusi Vincenzo, Guido. Spenga la radio però. Guido. Sì, pronto, eccomi, sono in linea. Diciamo, è incerto per la neve che sta attraversando? No, guardi, io concordo pienamente con quello che dice lei, anche con quello che dice l'ultimo telespettatore, perché qual è il problema? Noi stiamo, diciamo, facendo un'esagerazione di tutto, capito? Allora sentiamo Fabrizio, concludiamo con lei. Lei in questo momento è circondato da lupi, da ghiaccio e da neve? No, tutt'altro, io sono sotto un bel sole, un cielo sereno. E dove sta? Vuole dire, sto a Livorno. A Livorno. E vuole dirle che anche con questo freddo si può fare il bagno in mare. L'acqua era a 16 gradi, intorno alle 11, 11:15, mi sente bene? Sì, parli più vicino. Sì, ecco. Si può fare anche il bagno in mare. Quindi Fabrizio da Livorno sta facendo il bagno alla faccia di Burian e alla faccia del gelo che ci ha messo tutti in ginocchio. Saremo in ginocchio, ma non certo per Burian. A domani.